Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Stormo Rock. Ve lo vado a introdurre. Solitamente sono una band, un programma che tratta di punk rock e quant'altro, ma avendo visto questa band dopo una reunion, un nuovo album, mi faceva un sacco piacere. Ho avuto l'occasione di incontrarlo al volo, fare scambiarci due chiacchiere e dire: guarda, avrei piacere un sacco di intervistarti. Fortunatamente è disponibile. Ed è qui con me Lorenzo dei Folkstone, quindi ciao Lorenzo, come va? Ciao, benissimo, grazie, bene. Bene, mi fa un sacco piacere. Come dicevo, come ti avevo anche un attimo anticipato, sono principalmente un discorso di punk rock, però io, ascoltando io e Folkstone e voi essendo italiani, essendoci incrociati, diciamo, quando avete suonato qui a in quel di Bologna, portando il tour di Natura Morta, ho detto: sai cosa, io mi fa un sacco piacere, te l'avrei chiesto comunque anche se non foste passati da Bologna o quant'altro. Ho detto: ho visto il nuovo album, mi avrebbe fatto piacere un sacco comunque, quindi benvenuto sulla Stormo Rock. Grazie mille, grazie. Allora, bene o male, come ti dicevo, ho una domanda introduttiva, che sono un sacco curioso di sapere bene o male cosa mi andrai a rispondere, diciamo. E la domanda è molto semplice: non è sicuramente una band di riferimento vostra, ne sono sicuramente sicuro, anzi ne sono pienamente più che sicuro. Sto parlando dei NoFX, che è una band che lo scorso anno si è sciolta. Quindi vorrei sinceramente chiederti se cosa sono per te NoFX, se sono qualcosa per te NoFX. Ma in realtà, sai, quando tu mi hai detto che col punk rock c'entriamo poco, relativamente poco, perché cioè, in realtà i Folkstone sono un po' di tutto, se vuoi, perché c'è tanto punk, e anche se vuoi abbiamo sempre avuto un'attitudine molto punk, ce l'hanno da sempre sul palco. Beh, i NoFX sono una colonna portante del genere, e voi mi fai tornare anche un po' più giovane, no? Alla memoria, voglio dire, chi non ha ascoltato i NoFX, voglio dire, no? Quindi per me sono dei grandi, non ho nient'altro da aggiungere se non questo, insomma, hanno fatto la storia di questo genere. Ah, ok, bene, buono a sapersi. Infatti il mio era non ovviamente un discorso centrati poco con il punk, era ovviamente, ho detto, rispetto a questo folk metal che andate a proporre, che fate ormai da 20 anni, se non qualcosina di più, con i NoFX effettivamente c'entra, con la band effettivamente NoFX c'entra poco, però mi fa un sacco piacere che comunque porta bandiera alta anche per loro. Assolutamente. Come dicevo, Lorenzo, il cantante dei Folkstone, è qui con me perché sono usciti con il nuovo album Natura Morta, uscito praticamente un mese e mezzo fa, bene o male, ottavo o nono album questo? Non lo so, non mi ricordo se è l'ottavo o il nono, diciamo che dopo il terzo non li conti più. Mettiamola così. Ah, ok, c'è una regola non scritta che dopo il terzo dici: vabbè, ormai. Almeno io dico: vabbè, non lo so. Sì, forse il nono. Boh, dopo dipende se conti i live, non i live, sai, le raccolte, no? Si dice effettivamente. Diciamo che quando invecchi, poi è come gli anni, no? Dici: vabbè, dai. Più o meno siamo lì. Dici più o meno, esatto, il 40 o 50 c'è, 30 c'è, poi dopo nello specifico lasciamo un attimo stare. Infatti, dai, mettiamola così. Tra l'altro, dimmi. Nel nostro album c'è un featuring con i nostri amici Pancreas. Esatto. Quindi vedi che poi non siamo neanche così distanti da quel mondo, anzi, ti dicevo che i Folkstone sono un po' di tutto, perché siamo in 9 sul palco, no? Sì. Quindi diciamo che i mondi musicali da cui arrivano tutte le persone sono molto diversi, e i Folkstone sono un condensato di questa cosa, un minestrone di tutto il mondo che poi ognuno ha dietro di sé. Quindi c'è chi più in un modo, chi ascoltava più qualcos'altro, non so, Roby ha sempre ascoltato reggae, per dire. Okay. Quindi c'è dentro un po' di tutto, vai, mettila così. E rientriamo in diretta. E sono sempre qui collegato con Lorenzo dei Folkstone, che stavamo parlando appunto del loro nuovo album, che Natura Morta, questo grande ritorno sinceramente, perché come ti avevo un attimo preannunciato quando ci eravamo sentiti prima, appunto per il check audio video, ti avevo detto io sono un ascoltatore fan dei Folkstone di ultima data, perché avevo scoperto i Folkstone tramite un video su YouTube dai consigliati quando usciste con siete usciti con l'album Diario di un Ultimo, appunto c'era il singolo Diario di un Ultimo. Me li sono ascoltati e ho detto interessante. Di lì a poco ho scoperto che facevate un tour. Purtroppo ho anche scoperto che quello sarebbe stato il tour di scioglimento. Quindi ho detto almeno me li vado a vedere una e un'unica volta, prima e ultima volta, al Viper di Firenze. Quindi poi contentissimo quando siete tornati con questa sorta di comparsata nel 2023, quando avete suonato al Metal Italia Fest, sì, se non sbaglio, sì. Esatto. E poi per tornare effettivamente sui palchi di lì a poco praticamente, giusto? Sì, sì, poi abbiamo fatto quattro date dopo il Metal Italia Festival in giro per l'Italia, e lì abbiamo ricominciato a scrivere pezzi fondamentalmente, quindi poi abbiamo cominciato a infilarli tutti insieme. Poi ho avuto la malsana idea di dire che avremmo fatto un doppio album. Poi in realtà l'album dovevamo farlo, ma ormai l'avevo detto, e quindi ci siamo trovati a dire ok ragazzi, dobbiamo fare un doppio album. In realtà avevamo un sacco di idee non ben definite e rifinite, però diciamo che alla fine è uscito un doppio album con 16 pezzi. Esatto, che bene o male è quello che è stato, che appunto è Natura Morta. Come ti dicevo, ci siamo un attimo scambiati due parole quando avete suonato qui a Bologna, appunto al tour, e la cosa che mi è piaciuto un sacco è un'introduzione che avete hai fatto al brano di Vuoto a Perdere, questo discorso che vi un attimo hai fatto dicendo non avete trovato col fatto che siete autoprodotti, fate tutto bene o male per conto vostro. Avete avuto una sorta di malelingua dicendo non andrete mai da nessuna parte, se non mi ricordo male era qualcosa del genere. Sì, no, noi ci siamo da sempre autoprodotti, vuoi perché non ci ha mai cacato nessuno, o vuoi perché ci troviamo benissimo così, cosa vuoi che ti dica? Però sai, sono 20 anni che comunque ormai giriamo l'Italia, e ma siamo contenti di quello che facciamo. Insomma, quando mi chiedono sempre non so cosa ne pensi, dove sei arrivato, dove non sei arrivato, io dico sempre che sono arrivato all'apice della mia carriera. Okay. Quindi dico posso solo scendere, e siamo contenti insomma, di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo, della risposta del pubblico, va bene così. Anche perché giustamente la risposta è più che positiva, perché io ho visto in due occasioni ed è sempre stato pieno, nonostante anche diversi sold out che avete fatto a Milano, appunto anche sicuramente c'è stata una marea di gente anche quando avete suonato per il Metal Italia Fest anni fa. Quindi comunque, come dici tu appunto, la risposta è sempre più che ben positiva. Con questo genere, bene o male, folk metal, un passaggio in Germania, bene o male, che come genere può andare tanto, l'avete mai fatto? È capitato? Ci avete mai pensato? Sì, no, abbiamo suonato parecchio in Germania, okay. In vari festival, ma anche un po' per l'Europa, soprattutto nella prima parte, se vuoi, della nostra carriera. Dopo, in realtà, cantando sempre e comunque solo in italiano, effettivamente il nostro pubblico l'abbiamo poi costruito più in Italia che all'estero, anche perché insomma è importante anche cosa si dice, quindi al di là della sonorità alla fine siamo rimasti attaccati all'Italia. No, anzi, no. Addirittura in questo album abbiamo voluto fare una canzone in spagnolo perché ci eravamo un po' rotti le palle, facciamo un'altra lingua, cazzeggiando in sala prove. Roby si è messa a cantare in spagnolo, ho detto cazzo, registriamo subito, via, e l'abbiamo messa in spagnolo, e quindi c'è un pezzo cantato in spagnolo. Ah, oh, fantastico, vedi, mi piacciono un sacco questi retroscena, quando questi parlare un po' rotto a libera, per modo di dire, che appunto saltano fuori saltano fuori questi piccoli aneddoti di Gigi. Come mai dopo 8-9 album tutti in italiano principalmente salta fuori questo brano in spagnolo, ed ecco qui il motivo per cui c'è un brano in spagnolo. Esattamente, è un no sense, cioè non c'era niente di premeditato, ecco. E rientriamo quasi a conclusione della prima parte di L'Estromo Rock, qui sono sempre qui collegato con Lorenzo, cantante dei Folkstone, ripeto, usciti con il loro nuovo album Natura Morta. 333 180 94 94, se qualcuno volesse mandare un messaggio tramite WhatsApp, oppure per chi sta seguendo la diretta, se vuole tranquillamente mandare un messaggio di saluto, siamo in due, bene o male non lo dovremmo perdere. Parlando al discorso di live, è un tour che è ancora in atto, quello che è partito ai primi di marzo più o meno, se non ricordo male, giusto? Sì, sì, adesso in realtà abbiamo fatto 3 date a Milano per la presentazione dell'album e una a Bologna, poi partirà il tour, diciamo, estivo, all'aperto, che partirà dal 24 maggio a Sondrio, poi saremo a Parma il 7 o l'8 di giugno, oh. e poi via, si stanno aggiungendo date, saremo in giro un po' per tutta Italia. Certo, allora pensavo fosse tutto un discorso, cioè partiti da Bologna, fosse un discorso di tour completo. Effettivamente, ripensandoci, giustamente ci sono date che sono anche per luglio, e agosto e settembre, quindi un calendario in aggiornamento. Ovviamente, che per chi fosse ovviamente interessato per vederli, dalle parti di Bologna, meno male, girano per tutta l'Italia, quindi seguendo i loro social, che possa essere Instagram, Facebook o quant'altro, ve li potete sicuramente andare a godere. Piccola postilla per quanto riguarda sempre i live, sono, oltre che belli comunque, perché sono molto scenici, essendo in 9 ed essendoci diversi cambi strumenti tra i vari musicisti, praticamente un 2 ore di Folkstone. Praticamente un 2 ore di Folkstone, 1 ora e mezza, 2, sempre. Sì, no, noi facciamo sempre 2 ore, poi dipende se come va la serata, poi magari aggiungiamo anche a random altro. Dipende un po' se il vino è buono o no, insomma, così l'atmosfera, voglio dire, no? Non abbiamo un time definito, ecco. Ok, no, quello è molto bello, anche perché così, facendo 2 ore e avendo dei pezzi bene o male che sono dai 3-4 minuti in avanti, avete modo di poter spaziare su tutta la discografia della band, quindi... cerchiamo, ovviamente diamo più spazio in questo tour, ovviamente, all'ultima uscita, quindi a Natura Morta, però... Certo. Diciamo che ripercorriamo un po' tutta la nostra storia, cerchiamo sempre di ripercorrere il tutto, quindi il minimo sono 26 pezzi, non lo so, una roba del genere. Sì, esatto, ho visto e ho goduto, diciamo, di questa lunga setlist, sinceramente. Domanda un attimo, non dico, magari che t'hanno già fatto sicuramente, come mai c'è stato questo scioglimento 2019, quindi 6 anni fa, per poi ritornare 4 anni dopo, un po' variati, perché mi ricordo, se non sbaglio, solo tu e la Robby siete quelli che sono rimasti un po' bene o male lo zoccolo duro. No, vabbè, guarda, io e la Robby, vabbè, siamo quelli, diciamo, che ci siamo dall'inizio. Da sempre, però... esatto. Anche Maurizio è un'altra colonna portante del gruppo, okay. E anche Edo alla batteria, Luca alla chitarra. In realtà la formazione è cambiata nel tempo, ma quelli che siamo ad oggi sul palco un po' siamo quelli di Diario di un Ultimo e anche dei 2 album precedenti, okay. Quindi siamo sempre noi. Del perché ci siamo sciolti te lo dico subito, senza fare tanti giri di parole, vai, ne avevamo un po' piene le palle, insomma. Almeno io mi ero stancato dopo tanti anni. Avevo bisogno di girare, di staccare la spina, anche perché quando sali su un palco non è che devi aspettare il momento in cui scendi, cioè deve essere una gioia, deve essere un far vedere l'anima, far passare un messaggio se vuoi anche, e quando questa cosa un po' ci è venuta a mancare, basta, mi abbiamo detto ragazzi, è inutile girarci in giro, ce ne abbiamo un po' piene le palle, un po'... Cioè, avevamo anche un po' di rapporti, se vuoi, non logorati, però dopo tanti anni è una famiglia, no? Perché diventa una famiglia. E questa pausa ci ha fatto veramente bene, anche perché per 4 anni non ci siamo proprio più visti. Ci siamo proprio più visti. Okay. Cioè, non è che ci siamo incontrati per sbaglio da qualche parte. No, abbiamo proprio staccato la spina. Poi, vabbè, è cambiato il mondo, è scoppiato il Covid, quindi... Diciamo che, se vuoi, nella sfiga ha anche aiutato a staccare completamente. Sicuro. La spina. Io e Robby personalmente non abbiamo fatto nessun progetto parallelo, io non ho più cantato nulla, se non magari qualcosa sotto la doccia. E quindi la cosa è veramente stata una cesoia, voglio dire. Poi ci siamo incontrati una sera e... dico sempre che quando poi apri la bottiglia bevi un bicchiere, ma poi la bottiglia la finisci, quindi ecco. Tac, è nato, dai che facciamo un live. E da lì poi è rinato tutto, siamo saliti sul palco e ti giuro, dopo 4 anni avere la risposta che abbiamo avuto al Metal Italia, insomma, mi ha fatto quasi commuovere, nel senso di dire che non pensavo di aver comunque lasciato qualcosa a così tante persone, per noi così tante, che siamo comunque un gruppo underground, adesso non è che ci giriamo intorno, siamo una piccola realtà sempre autoprodotta, e per noi è stato un piacere enorme, e quindi via, c'è ritornata la voglia di fare, di brigare nel mondo della musica. Poi si dice, ma tanto non lo facciamo più come prima, cioè ce la prendiamo un po' con comodo, ma in realtà è tutta una puttanata, perché poi siamo ripartiti, esatto, peggio di prima. Esatto. carichissimi, buono a sapersi, mi fa, come ti ripeto, come ti dicevo prima, mi fa un sacco piacere questo ritorno. Seconda parte di Let's Talk More Rock, sono sempre qui collegato con Lorenzo dei Folkstone. Ripeto, sono usciti con il loro 8° o 9° album Natura Morta, ne stiamo parlando, ne abbiamo già sentito qualche brano appunto dal loro nuovo album, e stavamo un attimo parlando nella pausa, diciamo, per modo di dire, dei vari featuring. Tra l'altro ho notato che è la prima volta che un album dei Folkstone ha dei featuring, se non sbaglio. Sì, è la prima volta, sì. E niente, abbiamo voluto chiamare degli amici, quindi abbiamo un pezzo con i Pancreas, che è la fabbrica dei perdenti. Poi abbiamo mandato un pezzo ai Modena City Ramblers, che gli abbiamo inviato un pezzo, gli abbiamo chiesto cosa ne pensavano, così loro all'istante hanno accettato di partecipare a questo pezzo, sono venuti a trovarci. La cosa ci ha fatto un immenso piacere, perché poi, sai, è come avere, se vuoi, un attestato di, fra virgolette, di stima, no? In reciproca. E addirittura poi siamo andati a cercare Trevor dei Sadist, quindi un death metal che con noi addirittura estremo, però abbiamo veramente incastrato tante cose. Come ti dicevo, è un po' il nostro pregio, se vuoi anche la nostra, come si dice, non la nostra pecca, ma è non mi viene il nome, però diciamo che è una cosa che non ci incasella esattamente in un genere, no? Certo. E quindi il fatto di non avere esattamente dei paletti in cui stare ti può dare una mano, ma può essere anche una grossa fregatura, perché non rientri esattamente, sai, fanno il festival punk, c'è il festival punk, c'è il festival meta, c'è il festival meta. Noi siamo sempre un po' a cavallo di tante cose, e quindi stiamo un po' qui come genere musicale, però insomma, è il nostro marchio, quindi va bene così. No, no, certo, più che giusto tenere, appunto, come dicevi, un attimo l'anima dei Folkson, però mantenendo aperte comunque le varie opzioni, avendo appunto un discorso che rimane un attimo a cavallo. Adesso ti vado a fare una domanda che magari ho fatto anche in altre occasioni, perché essendoci praticamente una carriera ventennale comunque o qualcosa di più della band, arrivati a 8-9 album, a livello di testo, come possono nascere altri nuovi testi di Folkstone su varie tematiche? Perché dici, dopo 8-9 anni, dici di che cosa vado a parlare nei prossimi testi? Ma guarda, i Folkstone hanno sempre fatto testi, è facilissimo, perché basta vivere e poi le cose le vedi, le cose le vivi e poi le racconti. Fondamentalmente i testi dei Folkstone sono questo. Se uno ascolta i nostri album, può trovare dell'attualità con cui ci troviamo purtroppo sempre superati, perché poi gli eventi ti superano, scrivi una canzone, è già vecchia, no? Perché, e poi trovi il nostro modo di stare al mondo, di essere noi stessi. Quindi non è mai stato un problema parlare di qualcosa, perché uno vive e si guarda intorno, insomma, sono le emozioni che uno ha dentro, cerca di trasmetterle a qualcun altro. Ecco, ti posso dire che l'unica paura che veramente mi fa paura andando avanti nel tempo è diventare una fotocopia di se stessi, no? Che capita, purtroppo capita nel mondo della musica, ma fortunatamente noi penso che ancora non ci è mai capitata questa cosa, perché non avendoci mai messo dei paletti né come tematiche né come musica, abbiamo sempre cercato di andare oltre, che anche questo è un bene ma anche un male, perché poi la gente magari si aspetta sempre qualcosa da te, certo, nel mondo musicale. Però per me questo è veramente un limite ed è veramente una cosa, secondo me, svilente per un artista. E anche qua, sfortunatamente o fortunatamente, non mi dà completamente da mangiare la musica, e quindi posso anche sbattermene eternamente le palle di questa cosa e cercare sempre di andare oltre. Dici, vabbè, magari non piacerò proprio a tutti questa proposta, ma è quello che prima cosa deve piacere a te, prima che agli altri. Certo. E non è facile dopo tanto tempo, ecco. Non lo metto in dubbio, per quello infatti appunto vado ogni tanto, appunto, con band da 20 anni, vado un attimo a chiedere, appunto, bene o male la risposta che ho sempre ricevuto, bene o male dici basta guardarsi intorno e parlare di attualità, perché purtroppo se ne sentono di tutti, di cotte e di crude tutti i giorni, quindi che possono essere a esterno oppure sentimenti proprio interni che uno vuole esternare, quindi diciamo effettivamente ce n'è comunque, dopo 20 anni uno ce la fa lo stesso. Quasi alla fine di L'Estromo Rock, continuo l'intervista con Lorenzo dei Folkstone, che ripeto per l'ennesima volta sono usciti con il loro nuovo album Natura Morta, questo 16 pezzi tutti belli, belli carichi e potenti, diciamo, come ce l'avamo un attimo detti. E quindi banalmente, qual è il brano che preferisci di questo nuovo disco? Vabbè, qua mi trovi in difficoltà. I brani che sento più miei sono Natura Morta e anche Vuoto a Perdere, insomma, ecco. Sono due brani a cui sono affezionato. Poi, sai, Natura Morta per noi era voleva essere, se vuoi, un grido romantico, dai, un grido di romanticismo che si riaggancia poi, se vuoi, anche l'autoproduzione, all'essere in giro sempre con le proprie gambe, insomma. Se chi vive di passione, penso che al mondo d'oggi, ma proprio come passioni interiori, venga un po' travolto da tutto sto mondo molto razionale, se vuoi razionale, tecnologico, incasellato, insomma, il nostro vuole essere un urlo romantico. La nostra Natura Morta è come, era proprio uno sguardo verso questo mondo, e prendeva spunto un po' da questi chiari e scuri alla Caravaggio, mettila così. Okay. Faccio pure il critico d'arte, adesso siamo a posto, dai. mi mancava solo questa, la carriera da Ad Katsum, come si dice. Che è sottile questa, quindi mettendola una sorta di latino, questa passa come se fosse una parola normalissima, perché ti dici, io effettivamente non ho espresso un parere particolare, però è, il concetto è quello, ma mascherato comunque. Il concetto è quello, sì. Al discorso invece di copertina, perché bene o male vedo sempre che bene o male c'è il vostro logo, ormai è questo teschio con la cresta fatta con le cornamusa sostanzialmente. Sì, ma perché poi si riallaccia anche un po'. Vai, dimmi. Sai, pure io sono un fan degli Exploited, è inutile nasconderlo, no? Sai che loro avevano fatto quel teschio con la cresta di ossa e mischiavano un punk hardcore che strizzava l'occhio al metal. Certo. Beat the Bastards era un po' il... io, a me ha fatto impazzire totalmente quell'album lì. E ti dicevo che, come ti dicevo, non è che siamo lontani da quel, certo, mondo, anche dal punk hardcore. E quindi niente, ci è venuto in automatico. Prima avevamo un teschio con dietro due cornamuse un po' a stemma pirata e poi gli abbiamo ficcato le cornamuse nel cranio e quindi poi è nato questo logo. In questo caso la copertina di Natura Morta voleva essere proprio un chiaroscuro in Natura Morta. Se guardi il tavolo della copertina c'è tutto quello che trovi quando finiamo i concerti, è il tavolo di fine serata in cui si aspetta, poi si mangia, si fa un po' di cacciara ed estate inoltrata si aspetta l'alba anche in qualche caso, e quindi così era questa visione con questo teschio, con questo mantello un po' da nobile decaduto, voleva essere un po' un'immagine un po' decadente e romantica della cosa, per riassumerla. L'ha fatta sempre le nostre copertine, ce le fa sempre Jacopo Berlendis, che è un nostro caro amico, che tra l'altro è cresciuto con noi, poi lui è diventato un artista con la A maiuscola. Okay. E quindi niente, la copertina è nata così. Gli ho fatto sentire il brano Natura Morta, gli ho detto due idee, lui mi ha proposto questo schizzo e gli ho detto, cazzo, hai centrato in pieno il concept, cosa, diciamo, volevamo comunicare, ecco. Già, è fantastico, perché sono quelle domande che dici, oddio, non ho, che sembra uno non abbia più nulla da dire e dice, vabbè, parliamo della copertina così tanto per. E in realtà poi, come ti dicevo, come è saltato fuori il discorso della canzone in spagnolo, sono questi retroscena che sinceramente a me fanno un sacco piacere, come nascono diverse tematiche che possono essere appunto o di testo, o di lingua, o di appunto logo, o in questo caso della copertina, quindi... Buono a sapere, sono qui. Ha spiegatato anche dei GBH, per dire, ecco, ci andiamo un po' in quel mondo lì. Un po', esatto, un po' più ancora più datato, un po' più indietro, però buono a sapersi. Una domanda, magari un attimo fuori. Datato, mi stavi dando del vecchio, dai, dillo. No, datato, piano, no, aspetta. Sì, no, ma perché i miei gusti musicali sono datati, ovviamente, perché io ormai sfioro il mezzo secolo. Quindi, okay, insomma, uno più uno fa due. No, cioè, era mio, sembra che ti stessi dando del vecchio, in realtà era per fare un paragone no, figurati, immaginavo stessi scherzando, e ovviamente sto scherzando anch'io nel cercare di riparare questa allusione, per modo di dire. Ti dicevo, un discorso per quanto riguarda... fuori, diciamo, a livello effettivamente di band, essendo tantissimi, essendo effettivamente in nove, le prove dei Folkestone durano tre ore tipo o qualcosa, perché in un'oretta il tempo che arrivano tutti e quello che si prepara. Ma guarda, allora ti spiego un po' come funzionano i Folkestone, perché noi siamo un po' di Bergamo, Milano, Torino, siamo un po' sparsi nel nord Italia, e ovviamente i pezzi fondamentalmente li scriviamo in tre, i pezzi dei Folkestone. Ok. Poi ognuno magari può rifinisce la sua parte, però fondamentalmente ci teniamo sempre quei, prima di registrare un album, prima di partire per un tour, si fanno un due weekend, tre weekend di full immersion, ok? Un venerdì, sabato, domenica, in cui veramente non ne puoi più, e poi si parte per il tour. Funziona così. No, va bene, buona sapersi. Come ti dicevo, sono quasi agli sgocci della puntata, che così andrò a mettere anche il brano featuring che avete fatto con i Modena City Ramblers, che in questo caso è Fragile. Quindi a conclusione della puntata, e quindi ti lascio libero di coccolarti i figli o comunque fare le faccende di casa per quanto possa riguardare la domenica. Domanda giustamente oppure ti ho salvato per un'ora, vediamola così, dici guarda io ho un'intervista in radio c'ho un aperitivo che mi aspetta. Ah beh, allora è sacrosanto, la domenica è sacrosanto. Tranquillo. Ho una domanda come quella introduttiva dei NoFX, che bene o male vado spesso a fare, anzi vado sempre a fare. Ho anche la domanda conclusiva. La domanda conclusiva è quella scarica barile. Ti vado semplicemente a chiedere: c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? Ma secondo me non lo so, insomma, poi sai, le cose sono tante, però forse ecco, vorrei dire che comunque i Folkestone da sempre hanno un piede piantato bello bello forte anche nel sociale, e se vuoi hanno anche un certo messaggio, se vuoi, politico da dare, perché quando certo. Uno dice qualcosa, quando uno dice qualcosa, dà un'idea o scrive un pezzo sentendo qualcosa, sta facendo politica. Certo. Non è che non fa politica, perché sai, da tanto di moda, ma anche da dire ma non faccio politica, quando dici qualcosa fai politica, e se poi dici che non fai politica sei un paraculo. Ecco. Fondamentalmente questa cosa mi sembra importante. Ok, benissimo. Io, come ti dicevo, ti ringrazio nuovamente per la disponibilità, e quindi ti saluto e spero di vedere un'altra data del tour. Ci vediamo alla prossima. Grazie ancora. Alla ciao. Prossima, ti ringrazio mille. Ciao. Perfetto. Come dicevo, vado a chiudere la puntata, conclusione classica. Buon punk rock a tutti.